Incontri di Gianfranco Fabi. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano con questo brano di Lucio Battisti che richiama alla saggezza, alla vera saggezza. Iniziamo l'incontro con Alberto Piatti. Buon pomeriggio Alberto Piatti. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità. Alberto Piatti, segretario generale dell'AFSI. Ecco, cos'è l'AFSI? L'AFSI è un'organizzazione non governativa fondata nel 1972 che fa progetti di cooperazione in 40 paesi nel mondo. Quindi un'organizzazione di aiuti al terzo mondo. Ma torniamo a Lucio Battisti, che cos'è la saggezza? Ma questa frase mi ha sempre fatto molto riflettere fin da quando ero adolescente, perché se troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, vuol dire che c'è una modalità di conoscere che deve andare oltre la prigione dei nostri saperi, del nostro saper fare. C'è un livello della conoscenza che è assolutamente affascinante, che porta fuori di sé della propria capacità di misura. Quindi un po' superare la ragione, la fredda ragione, la fredda razionalità, e cercare di andare anche verso quello che può suscitare emozione. Ma direi arrivare al vertice della ragione, cioè ammettere la categoria che oltre quello che io posso sapere, conoscere e misurare c'è un oltre che rilancia sempre la dignità dell'essere umano verso un terreno nuovo da conoscere. Ecco, ma come si coniuga allora questa ricerca di andare oltre la saggezza con l'andare oltre i propri confini, cercare appunto di aiutare il mondo con tante piccole cose, come peraltro voi fate, come molte organizzazioni del vostro tipo fanno? Non c'è un po' di esuberanza razionale, anche se il termine è stato usato per altri argomenti, del fatto di pretendere di aiutare il mondo scavando un piccolo pozzo? Ma io credo che non ci sia assolutamente contraddizione, perché se l'essere umano è questa tensione al bello, al vero e al giusto, magari questa tensione, o come è stata definita recentemente dal Papa, questa innata dignità è sepolta, coperta dalla fame, dalla miseria, dalla spada, cioè dalla guerra, dal pericolo, e noi dobbiamo nell'immediato risolvere il problema che copre, che ostacola, che impedisce a questa innata dignità di emergere, perché se uno è gravemente malato, non ha da bere, non ha da mangiare, difficilmente riconosce la sua natura profonda. Ma dando da bere, da mangiare, aiutandoli al lavoro, con l'educazione, bisogna arrivare a quel punto sorgivo dell'essere umano in cui diventa protagonista dello sviluppo. Ecco, allora un impegno, una responsabilità. Alberto Piatti, ricordo, segretario generale dell'AFSI. Come è diventato segretario generale dell'AFSI? Qual è stato il suo percorso professionale? Perché adesso svolge una professione, in fondo, all'interno di una organizzazione di volontariato. Cercando di superare la saggezza più stagnante e incuriosito da una persona che veniva dalla Romania cercando aiuto, mi chiesero di cooperare alla costruzione di un ospedale pediatrico per bambini sieropositivi a Bucarest, l'ospedale Victor Babes. Me lo chiese Mino D'Amato, per dire la verità, che aveva da lì adottato una bimba. E io, avendo studiato agraria e non capendo niente di ospedale, ho detto perché no, qualcuno a cui chiedere come si fa lo troviamo. Mi sono ritrovato in questa avventura, non conoscevo il mondo del non profit, anzi l'impatto non è stato propriamente tra i più semplici. Avevo una piccola società di servizi e ricerche in campo agricolo, e durante le visite che facevo nell'immediato post Ceaușescu in Romania, a Bucarest, 91, 92, 93, per cercare di comprendere chi erano i miei interlocutori, come si faceva a rifare un ospedale a Bucarest, quali permessi ci volevano, andavo spesso in questo padiglione dove c'era veramente un campionario di infelicità assoluto, e presi in braccio una bimba che si chiamava Valentina, e casualmente mi fecero una fotografia. Questo avveniva verso novembre del 93. Poco prima di Natale questa bimba è morta. e mi telefonarono avvisandomi e dicendo che, essendo quasi tutti questi ragazzi abbandonati e orfani, non avevano rintracciato i genitori e non avevano i soldi per fare il funerale. Allora radunai la mia numerosa tribù familiare, i miei figli che allora erano piccoli, spiegai il fatto e loro rinunciarono ai regali di Natale per avere qualche dollaro per pagare il funerale a Valentina. Devo dire che questo episodio ha segnato me profondamente, la mia famiglia, e quindi è stato un po' un punto di ingresso non umanitario, ma direi del mistero della vita. Per cui il mio approccio con questa professionalità, come giustamente lei, perché ci vuole una professionalità adeguata, è stato un punto di vista del mistero della vita presente e del significato della vita. E così ho cominciato, chiedendo aiuto a tanti amici, e abbiamo realizzato questo ospedale, e chiedendo la cooperazione e la collaborazione della Fondazione AFSI, perché dovendo negoziare con il Ministro della Sanità piuttosto con il Presidente della Repubblica Rumena, allora Ioan Iliescu, il privato cittadino Alberto Piatti e l'ancorché famoso Mino D'Amato non avevano alcun titolo. Così è cominciata l'avventura. È cominciata l'avventura in AFSI, AFSI che c'era già, però da quel momento con il suo impegno è anche cresciuta, adesso è presente in 38 paesi con 100 progetti, con molte persone anche dipendenti dall'AFSI, perché non sono tutti volontari. Certamente sì, questa è una buona domanda, perché non si capisce perché far del bene o fare dei progetti sanitari in Africa, in America Latina, o progetti agricoli richiede una necessaria professionalità e una grande carica ideale, e la giusta mercede agli operai bisogna darla, perché sennò potrebbero fare quello che si chiama volontariato, che è un'unica, che è un'espressione molto dolce e molto soave, solo chi ha tanto tempo, chi non ha niente da fare o chi è ricco. Certo. E come ricava i fondi per pagare questa organizzazione complessa, l'AFSI? Noi abbiamo un bilancio certificato, visto che siamo in questa sede, è giusto dirlo, sia nel suo complesso, sia nelle linee budgetarie principali, di intorno ai 31 milioni di euro. Metà dei fondi derivano da donazioni private, migliaia e migliaia di persone che ci sostengono attraverso un meccanismo del passaparola e del vieni e vedi cosa facciamo. Poi ci sono delle aziende che fanno attività filantropiche e qualche azienda che comincia a porsi con noi il tema della responsabilità sociale d'impresa. Questa è metà del bilancio. In questa metà di bilancio ci sono più di 30.000 bambini sostenuti a distanza. Quel meccanismo semplice e rivoluzionario, che appunto va oltre la prudenza più stagnante, che con un caffè al giorno permette in alcune situazioni realmente di raddoppiare il reddito di una famiglia, posto che 1.300.000.000 di persone vivono sotto la soglia della povertà, che è un reddito al giorno di un dollaro. L'altra metà del bilancio, circa 15 milioni di euro, deriva da progetti che presentiamo in cofinanziamento con istituzioni nazionali e internazionali, per intenderci il Ministero degli Affari Esteri, l'Unione Europea, la Banca Mondiale, il Banco Interamericano di Sviluppo e la cooperazione del Dipartimento di Stato americano, che si chiama USAID. Ecco, vedremo magari poi nella seconda parte qualcuno di questi progetti. Resterei un po' sul tema appunto dei finanziamenti, dei rapporti con le organizzazioni. Come sono i rapporti con le autorità italiane, con lo Stato, con quanto può supportarvi, anche criticamente, si possono esprimere anche delle critiche? Non ho alcun problema a esprimere delle critiche. Devo dire che la ristrettezza del bilancio e l'insensibilità al valore della cooperazione rappresentata da chi in Italia ha i cordoni della borsa praticamente mette l'Italia ai minimi termini dal punto di vista della cooperazione internazionale. Per l'altro verso, quindi il Ministero degli Esteri ha pochissime risorse. Per l'altro verso, sia con l'autorità politica pro tempore in carica, il ministro Frattini, sia con chi si occupa specificamente di cooperazione, direi che c'è un rapporto molto cordiale e che con il quale si sta discutendo su alcuni grandi paradigmi di aiuto alla cooperazione, di aiuto allo sviluppo, che sono evidentemente saltati. Con le altre, avendo questa capacità di autofinanziamento, come si dice, c'è la possibilità di non andare a dialogare con loro col cappello in mano e quindi prendere quello che vogliono farti fare. Ma c'è realmente una possibilità anche di negoziare virilmente un metodo e un'identità. Ecco, l'AFSI era o è impegnata in Libia? Sotto traccia. Sotto traccia, non ufficialmente. Incontri. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione come un colombo intorno a un pallone, frenato con un colpo di becco ben aggiustato, forarlo e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su. E con questa Collina dei Ciliegi di Lucio Battisti e noi ancora, ancora più su, riprendiamo il nostro incontro con Alberto Piatti, segretario generale dell'AFSI, un'organizzazione che si occupa di aiuti, di cooperazione internazionale, aiuti al terzo mondo, interventi. Abbiamo parlato nella prima parte della sua esperienza, dei suoi valori. Abbiamo cominciato a parlare anche delle iniziative dell'AFSI, un po' sotto traccia in Libia, molto più presente invece in quali realtà del terzo mondo, di quello che ancora chiamiamo terzo mondo? Beh, direi Africa molto, moltissimo, soprattutto Africa subsahariana, molto continente latinoamericano, anche se è un po' difficile in questo momento definirlo terzo mondo, se non per alcune sacche di povertà purtroppo ancora molto presenti. Sicuramente il Medio Oriente, compresa la Terra Santa, alcune realtà dell'universo ex-sovietico per intenderci, e poi nell'estremo oriente, in particolare in Thailandia e in Birmania, dove sono stato recentemente. Qual è di questi paesi quello in cui è più difficile operare, perché c'è più ostilità da parte delle autorità pubbliche, c'è più chiusura verso interventi esterni, c'è più magari qualche sospetto di un intervento che può avere delle finalità diverse da quello strettamente umanitario? Ma se devo essere sincero, un'ostilità reale non l'abbiamo mai riscontrata. Noi cerchiamo sempre di non fare sopra la testa dei governi e soprattutto sopra la testa delle persone, ma cercando, un progetto nasce perché c'è una richiesta esplicita. Non abbiamo mai deciso a tavolino, mettendo il dito su una carta geografica, andiamo in questo paese perché lì ci sono i soldi del donatore X o il donatore Y. Cioè non seguiamo quello che io chiamo un po' il circo umanitario mediatico, dove si accendono le luci delle telecamere, arrivano i soldi, corrono tutti. Basterebbe andare a vedere a distanza di un anno delle varie emergenze chi è rimasto, ma sarebbe una polemica inutile. Per esempio da Haiti? Per esempio da Haiti, per esempio nei paesi colpiti dallo tsunami, eccetera, eccetera. In Kosovo certo. C'era la fiera dell'umanitario, dello scibile umanitario presente possibile, siamo rimasti veramente in pochi. Per cui facendo in questo modo, coinvolgendo dall'inizio, facendo con le persone e non sopra la testa delle persone, gli illuminati che sanno come devono svilupparsi o hanno dei progetti, ma è veramente una cooperazione, partendo da quel positivo, poco grande che ci sia, perché per vivere o per sopravvivere le persone, le comunità si devono necessariamente, in modo anche elementare e semplice, organizzare, partendo così. Abbiamo raramente difficoltà con i nostri partner, soprattutto, e con i governi. Abbiamo più difficoltà con i governi che si ritengono più illuminati, che sanno loro qual è il bene e la felicità delle loro persone, del loro popolo. E allora posso chiedere, ma qual è, anche se magari è difficile fare delle graduatorie, l'iniziativa che le ha dato più soddisfazione? Beh, innanzitutto ho un certo legame affettivo, come avrete capito, con questa vicenda rumena. C'è un progetto bellissimo in Brasile, a Salvador de Bahia, dove abbiamo aiutato a ristabilire condizioni di vita adeguate in una favela costruita sull'acqua, su palafitte, a 135.000 persone, che è uno dei più grandi progetti di intervento sociale di questo tipo della Banca Mondiale, universalmente riconosciuto come una delle migliori buone pratiche. Ed è un progetto assolutamente interessante perché si passa dal micro al macro. E poi alcuni incontri che ho fatto in giro per il mondo, soprattutto in Africa, dove quest'idea dell'innata dignità sepolta da ogni difficoltà a un certo punto emerge e diventa protagonista di se stessa e quindi dello sviluppo. C'è un ragazzino, se posso continuare in questa Prego. Storia che si chiama Antoine, che io ho conosciuto nel 2004 in Ruanda. Sono arrivato in Ruanda naturalmente viaggiando rigorosamente di notte in economy per risparmiare tempo e soldi. Sono stato accolto da un concerto di tamburi ruandesi, per cui ero già abbastanza rintronato, si dice da noi. Mi hanno finito con i tamburi, piccola cerimonia, poi arriva questo Antoine e mi consegna una lettera dicendo, nella quale esprimeva gratitudine a me e all'organizzazione, perché lui da lì a poco, dal poco tempo prima, era diventato geometra e si risentiva orgoglioso e una risorsa per il suo paese. Bene, questo ragazzo nel 94, l'anno del genocidio, aveva 8 anni, era stato trovato nell'intorno di un campo di raccolta degli orfani che gestivamo da un neuropsichiatra infantile che avevamo mandato appositamente, su una pianta. Non voleva più scendere, non voleva più incontrare nessuno perché ha visto sterminati tutti. E un adulto che l'ha reintrodotto alla realtà con una speranza, una famiglia italiana che l'ha sostenuto per 10 anni con il sostegno a distanza, un affetto che ha ricevuto l'ha portato a compiere un percorso scolastico compiuto fino ad arrivare a qualcosa del nostro geometra, equivalente al nostro geometra, e soprattutto a riprendere fiducia di se stesso. Cioè ridare una speranza a queste persone. Ecco, l'Africa, noi abbiamo molto spesso degli stereotipi, giudichiamo l'Africa come se fosse una cosa sola, ci sono tante Afriche. Direi proprio di sì, ci sono tante Afriche, tante situazioni, l'Africa è ricchissima, alcuni paesi si stanno sviluppando con una rapidità che ci sorprenderà, mentre in altre situazioni ancora non si riesce a innescare questa dignità umana che è il motore dello sviluppo. E quindi c'è anche una situazione sociale che rende difficile il fatto di far avanzare le persone sotto un profilo educativo, sotto un profilo di partecipazione politica. Sono ancora regimi che ostacolano questa dignità delle persone. Sì, anche se la situazione è molto cambiata, perché dopo l'avventura coloniale e i successivi dittatori che si sono susseguiti nell'equilibrio geopolitico, ora si affaccia, come ha spiegato molto bene il primo ministro del Kenya poco tempo fa, una classe dirigente che si avvicina all'idea del multipartitismo e quindi di una democrazia come noi la viviamo, anche se il nostro modello democratico e il nostro modello di Stato credo che non sia obbligatorio esportato, certo. Anzi, fa male. Bisognerebbe che ognuno riuscisse a crescere salvaguardando le proprie tradizioni. Ecco, lei parlava di qualche paese che ci sorprenderà, il Kenya è uno di questi? Direi di sì, il Kenya, l'Uganda, il Mozambico, dove sono finite le grandi guerre e guerriglie interne o di frontiera, credo che il meccanismo dello sviluppo si stia innestando. Ecco, torniamo un po' all'AVSI, concludendo questa nostra passeggiata del mondo, per chiederle se un giovane volesse entrare, collaborare, lavorare per voi, cosa dovrebbe fare? Abbiamo un sito www.avsi.org in cui, oltre a tutta una serie di informazioni abbastanza aggiornate quasi settimanalmente da tutto il mondo, ci sono anche delle sezioni in cui uno può capire come collaborare. Deve sicuramente avere un grande contenuto ideale e un'altissima professionalità. Quindi un ingegnere, un medico può chiedere di passare un anno, 2 anni? Certamente, certamente, può chiederlo. E deve sapere però che se fa il medico, c'è un mio amico che si chiama Alberto Reggiore, che ha scritto un bellissimo libro, Il dottore è finito il diesel, che consiglio molti di leggere, che oltre a fare il medico, essendosi guastato il generatore, ha dovuto fare il meccanico mentre operava per riavere la corrente elettrica nella sala operatoria. Quindi è un medico un po' rotondo come professionalità. E quindi cosa dice a un giovane che magari viene a trovarlo e dice: io ho fatto l'ingegnere, mi sono laureato in ingegneria, vorrei andare un anno in Uganda a fare l'ingegnere? Che cosa? Verifichiamo con lui se c'è un'opportunità lavorativa, perché di questo si tratta. Anche se con un grande contenuto ideale, ma tutti i lavori dovrebbero avere un grande contenuto ideale, anche chi fa il giornalista, anche chi fa il medico, anche chi. E verifichiamo con lui se c'è una possibilità concreta e reale di aiuto e quindi di possibilità di lavoro. Quanto ai giornalisti, non so ancora se il giornalismo sia una missione o un'arte, comunque cerchiamo di barcavedarci anche noi, cercando appunto di ricavare un po' delle testimonianze autorevoli. Allora concluderei questa nostra camminata con qualche consiglio utile, ma non tanto per l'AVSI quanto per l'apertura verso il mondo che voi rappresentate. Un po' in sintesi, qual è il messaggio ideale che si sente di dare dopo l'esperienza che sta facendo? non riducete la saggezza solo alla prudenza più straniante. Un piccolo contributo di ognuno può dare un contributo enorme a tutto il mondo. Anche un euro al giorno, il valore di un caffè, può letteralmente cambiare la vita di un bambino. Non lasciatevi fuorviare da tutte queste maldicenze, per lo più mai provate, di come andranno a finire i miei soldi, eccetera, eccetera. Tenete conto che noi consumiamo e viviamo su uno standard di vita superiore del 30% delle nostre necessità. E credo che un po' di dieta morale, spirituale, prima che materiale, e di dimensione della drammaticità dell'esistenza aiuti tutti a porci meglio in equilibrio e mettere a fuoco le immagini troppe volte deturpate da luccichii e scintillii che la televisione ci propina. Ecco, si può crescere meglio, continuare anche a crescere, ma aiutando anche a crescere gli altri. Se il mondo cresce in maniera più equa, può essere una crescita anche più sostenibile. Si parla molto di sostenibilità in questo periodo, però non è solo una sostenibilità dell'eleganza, è una sostenibilità concreta. Assolutamente sì. Io ho fatto una garbata polemica con il ministro Tremonti, che diceva di aiutarli a casa loro. Non si fermano con le motovedette 1,5 milioni di persone che in questo momento sono in Libia aspettando di venire qua. Si fermano aiutandole con l'educazione, con il lavoro a casa loro. Ci vogliono le risorse e noi di risorse ne sprechiamo tante. Quindi usare meglio le risorse anche al nostro interno, portare delle risorse in un'ottica poi appunto di crescita complessiva, che possono aiutare anche noi. In questo senso, ripeto la domanda di prima, vi ha dato molta soddisfazione, alcune realtà pensa che adesso stiamo molto attenti a quanto avviene nell'area del Mediterraneo, anche su questo fronte possiate fare molto. Sì, sì, penso proprio di sì. Si tratta appunto di... Insomma, di Antoine, di Valentina, potrei fare decine e decine di nomi. Lo sviluppo parte dal cuore di queste persone che diventano protagonisti. O si arriva a questo punto o è assistenza. E appunto, quindi un aiuto che guardi alle persone, che guardi innanzitutto a un insieme, che non è un insieme ma è fatto di tante singole individualità. Io ringrazio Alberto Piatti, segretario generale di AFSI, di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Valeria Bernardi in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica. Grazie e buona domenica a tutti.